stata notificata un'ordinanza di misura cautelare nei confronti di alcuni lavoratori che avevano effettuato una serie di scioperi presso la sede della TNT FedEx tra la fine di gennaio e i primi di febbraio. In seguito a questi scioperi legittimi vengono contestati una serie di reati, dalla violenza privata per aver effettuato lo sciopero con le modalità del picchettaggio, dall'occupazione di suolo pubblico e quello più grave che ha determinato l'applicazione delle misure cautelari, quello della resistenza. La resistenza si è verificata nella giornata del 1 febbraio, quando la polizia, con una manovra sconsiderata, ha deciso di intervenire con la forza per sgomberare i lavoratori che si trovavano davanti ai cancelli della TNT ed erano seduti in maniera del tutto pacifica. La polizia è intervenuta tirando dei lacrimogeni a mano dove si trovavano seduti questi lavoratori. Da lì ne è nata una confusione che ha poi determinato, secondo la pubblica accusa, la sussistenza del reato di resistenza. Carlo e Arafat sono i due delegati principali del Sicobas nella provincia di Piacenza e solo per questo motivo sono stati considerati responsabili del reato di resistenza, pur non avendo commesso alcun atto materiale di violenza o di minaccia nei confronti delle forze dell'ordine. Sono delegati Sicobas, sono i principali, quindi responsabili di quanto accaduto. La misura era stata richiesta dal pubblico ministero per tutti e 29 i lavoratori che sono stati identificati. Il giudice l'ha decisa di applicarla solo per 7 persone, quindi 2 persone, i responsabili del sindacato, ai arresti domiciliari, gli altri 5 invece con un divieto di dimora nella provincia di Piacenza. Non solo sono state applicate queste misure cautelari, c'è tutto un corollario che è stato costruito e applicato nei confronti di questi lavoratori. Come voi ben sapete, la maggioranza dei lavoratori della logistica sono stranieri e quindi la loro possibilità di rimanere sul territorio è legata a un titolo di soggiorno, a permesso di soggiorno. Bene, dopo questa operazione sono stati portati in questura e alcuni di loro sono stati notificati degli avvisi di avvio di un procedimento amministrativo volto alla revoca del permesso di soggiorno. Quindi anche questa è una manovra piuttosto repressiva e importante nei confronti di questi lavoratori. Non solo, nei confronti della maggior parte delle persone che sono state indagate è stata avviata anche quella procedura amministrativa che ben conosciamo delle misure di prevenzione, e la prima mossa è stata quella di notificare un avviso orale che poi può essere prodromico poi alla successiva notifica di misure di prevenzione più gravi, come può essere il foglio di via oppure la sorveglianza speciale. Insomma, è stato costruito un pacchetto intero, non si è limitati alla sola contestazione di alcuni illeciti penali, questo che connota la gravità di quello che è successo. Tu ci hai dipinto un quadro, sembra un po' sproporzionato rispetto a quello che è successo. Ma assolutamente sproporzionato, non si capisce perché, poi vedremo quando si andrà a processo se ci sono dei reati, ma non si capisce perché debbano essere applicate delle misure cautelari nei confronti dei lavoratori che legittimamente stanno esercitando il loro diritto di sciopero. Poi sarà la magistratura nel corso del processo a valutare se quella forma è legittima o meno, ma non si capisce quali siano le esigenze cautelari che giustificano che in attesa di fare un processo si possa mettere dei lavoratori, sottoporli a delle misure così gravi. Tenete presente che 5 persone che sono state destinatarie del divieto di dimora nella provincia di Piacenza abitano a Piacenza, hanno le famiglie Piacenza, bambini piccoli che frequentano la scuola e lavorano nella provincia di Piacenza, ma è un'assurdità. In questi giorni sono stati costretti ad allontanarsi dalle loro famiglie e vivono tutti insieme in un albergo appena fuori la provincia di Piacenza. Ma è possibile questo? Non abbiamo detto che quella lotta, insomma, sindacale poi fu vinta dai Sicobas. Ma certamente, perché poi nell'ordinanza di applicazione si dice che questi lavoratori non hanno alcune pretese e che il loro unico scopo è quello di fare del proselitismo con altri lavoratori, acquisire più importanza da parte del sindacato, ma in realtà stavano rivendicando delle lotte non giuste, più che giuste, e tanto che pochi giorni dopo l'effettuazione di questi scioperi è stato raggiunto un accordo con la TNT, quindi non si comprende neanche quanto è stato scritto nell'ordinanza. La lotta del sindacato nella logistica è fondamentale da anni, non solo adesso, è da anni che grazie a queste lotte sono vengono ottenuti dei giusti diritti nei confronti di questi lavoratori che prima lavoravano in condizioni disperate, quasi assimilabili a quella dei rider attuali. Sì, sappiamo, abbiamo parlato molto anche della logistica e dei fenomeni che si sono manifestanti tra cop spuri e caporalato e vari tipi di sfruttamento. Se ci si è adesso allontanati dal caporalato, grazie alle lotte dei sindacati come il Sicovas.